Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, siamo al termine di una lunga giornata e anche di una lunga 10 giorni al Festival della Scienza di Genova, che Mebius ha seguito da vicino. Sono qua con Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Buonasera Federico, che bello essere qua a Genova. Abbiamo praticamente tutta la puntata dedicata a raccontare che cosa si è visto nel modo più diverso in questo festival, e lo capirete subito ascoltando i titoli. Settimana di scienza a Genova. Vi raccontiamo gli eventi più importanti direttamente dalle voci dei protagonisti. Piante di plastica robotiche che si muovono in risposta a stimoli vocali diversi. È ingegneria giapponese. Sembra poco utile, in realtà avrà importanti applicazioni nel sociale. Muoversi tra i musicisti di un'orchestra è possibile scaricando un'applicazione sul telefonino. Scienza e cibo, dal super pomodoro al carciofo probiotico, la biotecnologia al servizio dell'alimentazione. Una farina di grano per celiaci sembra impossibile, invece un gruppo di ricercatori di Avellino l'ha messa a punto. Dalla terra alle tagliatelle, tutti i segreti del fungo più prezioso, il tartufo. Sono tante le teorie psicanalitiche. L'epoca in cui la psicanalisi si divideva fra Freud e Jung è terminata. Dunque, Chiara, ho incontrato Tomio Watanabe. Il classico brambilla giapponese. Watanabe è effettivamente un cognome comunissimo in Giappone. Tomio Watanabe è un ingegnere. E allora, Chiara, tu non c'eri, ma te lo devo descrivere. Immaginati un tavolino di 1 metro per 1 metro, piccolotto, con su tante piantine, saranno state non meno di 20 di plastica, vasettino con diametro 4 centimetri, piantine verdi, plasticotte con 2 foglioline, non di più, questo è lo scenario, ti è abbastanza chiaro? Sì, sì, chiarissimo. Quante erano più o meno? Ti ho detto 20. Ok. Con vari dispositivi, microfoni, software, insomma siamo di fronte a una postazione comunque che fa parte di ricerca scientifica, poi come dirò in particolare per la robotica, e si può parlare alle piantine e le piantine si muovono. Un po' come quelle che vendono i giapponesini o i cinesini ai bordi delle strade? Ecco, diciamo che queste sono filo più sofisticate. Che tipo di risposta hanno? Che cosa fanno? Che cosa serve far muovere una piantina? Sentiamo Watanabe. These actions assist human interaction. Yeah. Because conversation makes us very comfortable, so we can enjoy conversation. Lui qui che cosa sta dicendo? Sta dicendo che servono per rendere più confortevole la conversazione fra 2 persone. Ecco, sì, forse devi spiegarmi un po' perché non è chiarissimo, eh? Allora, poi dopo alla fine dirò dove vanno questo tipo di ricerche. Però tu immaginati una mamma che dialoga con un suo figliuolo, una sua figliuola, e parlando delle cose più diverse, magari le sta anche raccontando una favola, oppure la bambina sta raccontando di come è andata a scuola, e mentre loro parlano le piantine le seguono, muovendosi in modo diverso a seconda della voce, della tonalità della bambina, a seconda del timbro della madre, insomma partecipano alla conversazione. È interessante perché umanizzano in qualche modo la macchina, il robot, però l'applicazione in termini proprio di utilità. Allora, prima ti faccio sentire lui che parla alle piantine in giapponese, sentiamo. It depends on the rhythm, only the rhythm. So it doesn't really matter what language the speaker is speaking. Okay, I try to do that. Hamanya, hamanya, nyanya. Hama, hamanya, nyanya. これは今日本語で話してますけど、ちゃんと話を聞いてくれますね。I know you don't understand English, but you're responding with my voice. Just like this, the system is effective in your language. Beh, divertentissimo, però adesso ci devi spiegare qualcosa. Che cosa ha detto? Allora, lui ha finto proprio una conversazione, non chiedermi il contenuto, di una mamma che parla con un bambino piuttosto piccolo, sì. No? Gli fa il famoso verso che facciamo noi, solo in giapponese, ecco. No, vediamo la parte seria di queste ricerche. Fanno parte di quel filone nel quale, in particolare in Giappone, si cerca di analizzare tutte le possibili relazioni fra gli uomini e le macchine, veramente in un modo estremamente libero. Perché questo? Perché la frontiera della robotica è quella di riuscire effettivamente a costruire delle macchine che siano il più possibile capaci di entrare in relazione con noi e noi in relazione con loro, e quindi le cose più strane possono venire fuori, come spesso capita nella scienza, dalle ricerche più diverse, e lui sta lavorando sulle piantine che si muovono. Beh, e allora adesso capisco anche perché è importante che per umanizzare una macchina sia ovviamente importante spiegargli o insegnargli la comunicazione, qualsiasi tipo di comunicazione, anche quella della mamma col bimbo. Lui dice che da come si muovono le piantine si potrà anche capire come far muovere anche le facce, le espressioni. Insomma, può sembrare strano perché adesso lo stiamo dicendo in pochi secondi, ma le ricerche sono molto serie. Un po' la robotica applicata al sociale, molto importante. Non piantine, ma cellulari. Cellulari che in un prossimo futuro ci consentiranno di entrare dentro un'orchestra. Sara Occhipinti ha intervistato Corrado Canepa, ricercatore di Infomus, che fa parte della Casa Paganini di Genova, e sentiamo cosa racconta appunto su questo cellulare. Con un telefonino cellulare posso camminare in questa orchestra e mettere dove voglio io, posizionare dove voglio io questo o quello strumento che fa parte della registrazione che stiamo ascoltando. In questo brano abbiamo un pianoforte, una sezione di archi, un violoncello, un contrabbasso, un corno, un fagotto, un flauto, e io questi strumenti li vado a mettere più avanti, più indietro, un passo più in qua, un passo più in là, in qualunque posizione io sia, mi trovi, li posso ascoltare e posso anche vedere proiettato la silhouette dello strumento sullo schermo per rendermi conto di quello che sto facendo. Ebbene, noi con questo telefonino possiamo introdurre il software che ci permette di scrivere appunto questi strumenti e vederli nel display del telefonino. Inoltre, per esplorarli, possiamo esplorarli muovendo il telefonino come se fosse una bussola, ecco, come in un acquario si vede una pallina che scorre e che fa le veci dell'esploratore qua sul palco, quindi si sposta su un flauto, si ascolta il flauto, si sposta sul pianoforte, ascolta il pianoforte. Quindi abbiamo la possibilità di mettere la disposizione orchestrale di un brano musicale che altrimenti si sarebbe abituati ad ascoltare nella sua interezza, col suo messaggio completo, cioè noi ascoltiamo sempre la musica già finita, già elaborata dagli ingegneri del suono, così com'è nel messaggio finale. Invece con questo sistema noi possiamo entrare in un brano e possiamo capire i vari strumenti, che cosa suonano in certi momenti, come sono disposti e via dicendo. Quindi se io amo il basso posso isolare la traccia del basso e sentire esattamente, solo ed esclusivamente, il mio basso. Esatto, per poter fare questo occorre tirare giù, o dopo che uno ha il software naturalmente dentro il telefonino per fare questa esplorazione, occorre tirare giù il brano musicale da un server che potrà trovarsi anche in Finlandia, non importa. È possibile scaricare, come si suol dire, sul telefonino il brano di nostro interesse già pronto per essere ascoltato in questo modo. Vediamo come funziona. Prima l'orchestra con pochi strumenti. E ora l'orchestra al completo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoti ancora qui di fianco a me, Chiara. Sì, Federico, guarda, Genova ci offre tantissime possibilità e c'è un'intera sezione, come sai, di un argomento a me caro, la scienza in cucina, la scienza nell'alimentazione. E allora vogliamo dedicare una parte della trasmissione proprio a questo tema. Iniziamo con l'inventrice del super pomodoro, che è Giuseppina Tommonaro, ricercatrice dell'Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR di Pozzuoli. E cosa ha scoperto? Beh, innanzitutto siamo i primi produttori, io non lo sapevo, di pomodoro in Europa e non solo. Il maggiore produttore europeo, e in particolare l'Italia, è la prima nazione europea nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione, quindi nel pomodoro da industria, con l'ottenimento di prodotti tipo pelati, passate, cubettati, succhi di pomodoro, eccetera. Ok, ma parliamo dell'inizio. Dunque, l'inizio risale a tantissimi secoli fa, quando questa specie fu introdotta appunto da Cristoforo Colombo, e pensare che fu considerata una specie velenosa, quindi i consumatori, le persone non si avvicinavano assolutamente al consumo di queste bacche. E molti secoli dopo invece si è apprezzato il sapore, quindi l'utilizzo in cucina del pomodoro. E il pomodoro, che dire, che fa bene per diversi motivi, perché contiene tanti composti bioattivi che prevengono l'insorgenza di diverse patologie, dalle patologie cardiovascolari a quelle neurodegenerative a patologie tumorali. Diciamo che il composto principe del pomodoro è il licopene, che è un carotenoide con un'importante attività antiossidante, e quindi consumare pomodoro fa bene. Questo sempre nell'ambito di una alimentazione corretta, cioè è scorretto dire mangiate solo pomodoro. Il pomodoro fa bene mangiato in una grossa quantità, ma associato anche al consumo di altri alimenti, quali frutta fresca, vegetali, un corretto stile di vita, questo anche è importante. Quindi abbiamo questo alimento a disposizione che può aiutarci a condurre una vita migliore, perché non farne uso? Ecco, dalla vostra presentazione abbiamo capito che si fa presto a dire pomodoro, in realtà ci sono tantissime cultivar, voi ne avete prese in considerazione parecchie, e diciamo che ci sono due varietà che hanno queste caratteristiche organolettiche e nutrizionali particolarmente rilevanti. Quali sono? Dunque, questa ricerca risale a un po' di anni fa, diciamo c'è stato un inizio in questa ricerca. Abbiamo preso in considerazione delle cultivars italiane e anche estere, le migliori da un punto di vista del contenuto di carotenoidi, quindi ritorniamo ancora al discorso del licopene e del beta carotene, non dimentichiamoci che c'è anche il beta carotene nel pomodoro, sono risultate essere il San Marzano per le cultivar italiane e il Black Tomato per le cultivar straniere. Partendo da questo risultato, noi abbiamo pensato di andare oltre e quindi di incrociare queste due varietà e vedere un po' cosa ne venisse fuori. Allora, avete incrociato il San Marzano e il Black Tomato. Esatto, abbiamo incrociato queste due varietà. Tra l'altro il Black Tomato è stato incrociato non solo con il San Marzano, ma anche con altre due varietà di pomodoro, giusto per avere un confronto e un controllo. E l'ibrido ottenuto in particolare tra il Black Tomato e il San Marzano è risultato essere un prodotto interessante, cioè con delle qualità nutrizionali interessanti, con un'attività antiossidante interessante, per alcuni aspetti anche superiore al San Marzano. Ma la cosa altrettanto importante è che prima di tutto dall'incrocio è venuto fuori un pomodoro rosso. Non è venuto nero, cioè perché il Black Tomato è completamente nero. Esatto, il Black Tomato è completamente nero, però tenga conto che il consumatore è esigente. Per il consumatore il pomodoro deve essere rosso, non può essere nero, per cui aver ottenuto un prodotto che da un punto di vista estetico è molto simile a San Marzano, ma che ha preso dal Black Tomato comunque delle qualità nutrizionali buone, allora ecco che il prodotto è davvero interessante. Si presta bene alla trasformazione, quindi abbiamo ottenuto anche le passate in via sperimentale con delle industrie di trasformazione della nostra zona, e in più queste passate diciamo, il processo industriale non ha portato a una perdita di questo aspetto nutrizionale, di questa attività antiossidante di questo ibrido. E quindi penso che il risultato sia un buon risultato. L'avete chiamato per il momento temporaneamente il super pomodoro. Sì, è stato un nome così dato un po' per caso, un po' per gioco, ma ovviamente voglio dire è un nome preliminare, non penso sia quello definitivo, dobbiamo ancora pensare. Avete una coltivazione sperimentale, ce l'ha fatta vedere nelle foto, ma possiamo pensare che possa entrare nell'industrializzazione o comunque possa essere coltivato per la vendita? Sì, assolutamente sì, ovviamente non adesso perché è in preparazione anche il brevetto su questo argomento, per cui è ancora presto per una vendita del prodotto, ma presto insomma. Più avanti nella trasmissione saprete che ci sono tante possibili psicanalisi, mi pare che ci sono anche tantissimi carciofi. Sì, allora abbiamo detto che continuiamo sulla scia del vegetale e adesso invece ci occupiamo del carciofo e delle biotecnologie legate a questo importante alimento. Ci fa capire quanto sia importante per noi italiani Nicola Calabrese, che è ricercatore dell'Istituto di Alimentazione del CNR di Bari, intervistato da Sara Occhipinti. Sentiamo. Il carciofo praticamente è partito dal bacino del Mediterraneo, sulle sponde soprattutto del Medio Oriente, però molte testimonianze dicono che è stato domesticato in Italia, in Sicilia in particolar modo. Poi chiaramente di là si è diffuso anche nella Spagna, poi in Francia, poi ha varcato l'oceano e quindi adesso il carciofo è una specie che si coltiva praticamente in tutti i continenti del mondo, anche in Australia poco, ma si coltiva. E noi siamo dei grandissimi consumatori di carciofo. Per fortuna, appunto dicevo, gli italiani hanno un consumo pro capite di circa 8 kg a testa di carciofo, secondo me è un consumo che potrebbe essere ancora di più aumentato, sia a livello diciamo nazionale, maggiormente apprezzato perché per esempio il carciofo non si consuma perché non c'è durante l'estate. Se si riuscisse a produrre del carciofo anche durante l'estate, noi stiamo facendo degli studi di questo tipo, potremmo aggiungere altri 3 mesi praticamente al consumo del carciofo e soprattutto potrebbe essere molto più diffuso all'estero, dove invece è poco conosciuto. Infatti noi sappiamo che il carciofo si coltiva per 8 mesi. Sì, si coltiva per 8 mesi, praticamente la produzione incomincia dalle regioni meridionali, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia e la Sardegna, che hanno un calendario di produzione diciamo molto lungo, poi si aggiungono anche la Campania e il Lazio, per cui noi troviamo prodotto fresco di stagione a partire dall'inizio del mese di ottobre fino a tutto aprile. Ha un nome scientifico particolare che ricorda il cardo, giusto? Sì, il nome scientifico è Cinara cardunculus subspecie scolimus e appunto ci dice che il progenitore da cui deriva il carciofo è il cardo e questo ci dice anche che una selezione diciamo, che è stata fatta millenni fa appunto privilegiando per il cardo la grandezza della foglia perché appunto del cardo si mangiano le foglie e invece privilegiando per il carciofo il capolino, il fiore sempre più grosso. E con questo fiore si possono fare tantissime ricette. Sì, si possono fare tantissime ricette, ce ne sono veramente tante in tutte le regioni e devo dire che con tutta la pianta del carciofo si possono fare tantissime cose, dalle radici, dalle foglie, basti pensare che so all'amaro cinar che si fa appunto da un infuso di foglie di carciofo, si può ricavare anche dell'olio dai semi per esempio e soprattutto alcuni lo usano, il carciofo è anche un fiore bellissimo quando sboccia, ha questo colore azzurro lilla molto bello e viene utilizzato da alcuni sia come fiore fresco nelle composizioni floreali o anche come fiore secco, veramente ha un impatto molto visivo molto molto interessante. C'è anche chi fa il gelato al carciofo, Margherita di Savoia c'è una gelateria diciamo famosa per questo fatto. Sì, il carciofo stimola la fantasia veramente di tutti e in tutte le nazioni, nei posti dove si coltiva c'è un utilizzo diciamo un po' differente. Chiaramente l'abbinamento classico è quello o con la carne soprattutto o con alcuni ortaggi tipo carciofi e patate, per esempio, o con alcuni altri ortaggi anche di erbe spontanee. Meno diffusa è quella, appunto, l'abbinamento con il pesce. Non dobbiamo dimenticare che anche delle proprietà medicinali. Sì, infatti il carciofo ha moltissime proprietà, diciamo, bioattive, epatoprotettive, nel controllo dell'arteriosclerosi, anche nel controllo del colesterolo, perché poi è ricco, appunto, in polifenoli, quindi in sostanze antiossidanti, con l'inulina anche ha una funzione prebiotica, quindi, insomma, e penso che gli studi che sono in corso ci diranno ancora tante altre cose interessanti su questo ortaggio. Caterina de' Medici ne mangiava tantissimi, cioè era nota magari neanche tanto in maniera positiva per questa sua golosità del carciofo, di carciofi. Si disse che una volta addirittura ne riuscì a mangiare 70 in un giorno solo. Però, da quel che ricordo io, Caterina de' Medici poi è morta a 74 anni, e che per l'età, per l'epoca era praticamente un'età molto avanzata. Quindi chissà, forse c'è questo tipo di correlazione, chissà, ci piace crederlo. E poi voi avete fatto degli studi sul carciofo di quarta gamma. Sì. Di cosa si tratta? Il carciofo di quarta gamma è un prodotto già pronto all'uso, sull'onda di altri prodotti che già ci sono, tipo le insalate pronte in busta, nei sacchetti, nei vassoi, eccetera. Essendo il carciofo un ortaggio difficile, diciamo, da maneggiare e da preparare, e a maggior ragione adesso chi lo prepara, che sia uomo o donna, ha poca voglia di sporcarsi le mani, di pungersi, di perdere tempo, eccetera. L'idea è di fornire un prodotto già pronto all'uso e che si possa mangiare direttamente o crudo oppure cotto. Voi avete il brevetto del carciofo probiotico. Sì, il carciofo probiotico è un carciofo arricchito di microrganismi che fa bene, diciamo, alla flora intestinale presente nel nostro intestino. È quindi particolarmente indicato per gli intolleranti al latte. Uno basta che praticamente mangia due di questi carciofi, è come se bevesse due o tre di questi bicchieri, quindi questo tipo di prodotto, il carciofo, potrebbe essere utilizzato come snack, come aperitivo, come contorno, in tantissime occasioni d'uso, e quindi ha anche, appunto, questo aspetto piacevole, perché oltretutto è molto simile al carciofo sott'olio come sapore, e quindi molto apprezzato, e quindi noi pensiamo possa avere un buon successo. Questo carciofo probiotico è già in commercio? Non è ancora in commercio, noi stiamo facendo delle prove di industrializzazione, perché chiaramente la ricerca si fa su piccoli quantitativi, laboratori, eccetera. Poi, quando si passa alla fase di industrializzazione, è necessario mettere a punto tutto il processo industriale, e su questo, diciamo, stiamo valutando bene ancora, perché, diciamo, il nostro obiettivo è quello di renderlo sempre conservabile per un periodo sempre lungo, diciamo, e quindi bisogna mettere a punto tutta una tecnologia, un processo di produzione adatto proprio a raggiungere questo obiettivo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sempre da Genova, dal Festival della Scienza, e vi stiamo proponendo tante cose che qui al Festival si sono sentite riguardo alla scienza degli alimenti. Farina adesso, no Chiara? Sì, continuiamo con questo ricercatore che mi ha raccontato di un'invenzione davvero importante nel campo dell'alimentazione, se venisse poi prodotta. È Mauro Rossi, che è un ricercatore dell'Istituto di Ricerca per l'Alimentazione di Avellino, e loro praticamente hanno messo a punto una farina, attenzione, di grano, che adesso non è in commercio, senza glutine, per, appunto, coloro che hanno questa forte intolleranza. Sappiamo che sono in aumento in Italia la celiachia, appunto. Sentiamo. C'è da dire innanzitutto che la celiachia è un'intolleranza al glutine ampiamente diffusa, e praticamente circa l'1% della popolazione in Europa e negli Stati Uniti ne è affetta. E l'unica terapia attualmente disponibile è la dieta priva di glutine, da seguire per tutta la vita, che è una condizione abbastanza drastica, che appunto giustifica diversi tentativi per recuperare questa tolleranza. Uno di questi tentativi viene svolto praticamente nel nostro istituto, ed è quello di trattare enzimaticamente la farina di grano, quindi la farina di un cereale che è tossico per il soggetto celiaco, che normalmente non potrebbe mangiare. Esatto, normalmente non mangia, altrimenti sviluppa l'enteropatia, e di bloccarne con questo trattamento enzimatico le sequenze che sono tossiche per il celiaco. Questa strategia è stata sperimentata con successo in vitro, è già stato effettuato un primo trial clinico che ha consentito di recuperare la tolleranza in una sottopopolazione, non in tutti i soggetti celiaci. Attualmente stiamo aggiornando la strategia enzimatica nel tentativo di recuperare la tolleranza nei riguardi di tutti i soggetti celiaci. Quindi, se ho capito bene, se la vostra ricerca porterà ulteriori risultati, sarà possibile probabilmente acquistare un prodotto derivato quindi dal grano, con la possibilità appunto che possa essere mangiato anche dai celiaci. E che tipo di studio avete fatto? Voglio dire, in maniera semplice, se ce lo può spiegare, avete addizionato enzimi? Allora, quello che abbiamo fatto essenzialmente è stato di utilizzare un enzima che è già food grade, quindi di tipo alimentare, può essere utilizzato, complessandolo con un amminoacido modificato che normalmente viene utilizzato come integratore alimentare. Quindi si tratta di prodotti naturali che opportunamente aggiunti appunto alla farina hanno consentito di bloccare le sequenze che sono tossiche. Quindi la nostra ipotesi di lavoro, il nostro goal definitivo è quello di recuperare appunto il grano, quindi il gusto del grano che il celiaco ha completamente dimenticato, appunto per i soggetti che sono intolleranti. Quindi probabilmente oltre alle proprietà nutritive eccetera eccetera anche quelle caratteristiche certo organolettiche che ci permettono di fare la pasta, gli spaghetti piuttosto che gli altri tipi di lavorati. Esatto, sì, perché appunto il grano rappresenta uno dei cereali più ampiamente diffusi non solo nella nostra popolazione ma in tutto il mondo. È il cereale più coltivato nel mondo dopo il mais. In Italia è il primo è il cereale più coltivato e ci sono notevoli aspetti sociali. Lei può immaginare i giovani che escono per andare a fare una pizza e il giovane celiaco che purtroppo deve sottrarsi, quindi anche problematiche di questo tipo. È in quest'ottica che stiamo sviluppando questa nostra ricerca. Abbiamo visto che i risultati fino a qui sono ottimistici, c'è fiducia, insomma, a livello di tempi. Immagino che per un ricercatore non sia possibile dirli precisamente, però per dare un'idea? Sì, il punto fondamentale è questo, la strategia enzimatica ormai messa a punto e credo che non ci sarà bisogno di migliorarlo ulteriormente, per cui a breve inizieremo un trial clinico fatto su un'ampia popolazione e per un tempo lungo che dovrebbe definitivamente consentirci di guardare con ottimismo a questa strategia. Chi di noi sa esattamente come funziona quella macchinetta naturale complessissima che è il tartufo? Sara Occhipinti ci aiuta a capire che cos'è un tartufo intervistando Maurizio Bazzano, presidente dell'associazione Tartufai e Tartuficoltori Liguri. I tartufi sono dei funghi ipogei, vuol dire che nascono sottoterra. Vivono in simbiosi mutualistica, cioè hanno un accordo di amicizia con delle piante superiori. Con queste piante hanno degli scambi nutrizionali a livello degli apparati radicali. Non fanno simbiosi con tutte le piante, ma solo con alcune piante, le cosiddette piante evocate. Queste piante possiamo riconoscerle nella roverella, nel tiglio, nel carpino nero, i salici, i pioppi, i noccioli. Queste sono le principali. Come avviene questa simbiosi? Partiamo dal nostro tartufo. Il tartufo all'interno ha dei piccoli contenitori che si chiamano aschi, all'interno dei quali ci sono degli altri piccoli formazioni che si chiamano le spore. Le spore, al manifestarsi di opportune condizioni pedoclimatiche, temperature, umidità, germinano e producono dei filamenti unicellulari che si chiamano ife. Queste assomigliano un po' ha delle finissime ragnatele chiare. Queste ife si propagano nel terreno alla ricerca degli apici radicali, cioè delle terminazioni delle radici, quelle più piccole e fini. Una volta che le hanno individuate e se sono di un albero loro congeniale col quale possono instaurare una simbiosi, queste ife si avviluppano intorno agli apici radicali, formando come una sorta di manicotto. Questo manicotto si chiamerà micorrizza. E a livello della micorrizza si svolgono gli scambi delle sostanze nutrizionali fra le ife e la pianta superiore. Le ife in questa maniera, introducendosi sulla punta delle giovani radici, riescono ad assimilare un po' della linfa che dalle radici sale verso l'albero, il fusto e l'albero. D'altra parte la pianta ha la possibilità così di utilizzare tutti questi filamenti che vagano per il terreno come un'estensione naturale del proprio apparato radicale, così riesce ad assimilare, ad assorbire più facilmente acqua e i microelementi, sali minerali presenti nel terreno. E quando arriva a maturazione? Dobbiamo tornare alla nostra micorrizza, questo manicotto che avviluppa l'apice radicale. Da lì partono delle nuove ife che si chiameranno micelio secondario, cioè l'insieme di questi filamenti biancastri si chiama micelio. Dalla micorrizza ne partono altri nuovi, questi secondari. Questo micelio secondario è formato da ife sessuate, maschili e femminili. Queste ife hanno il compito di cercarsi fra di loro, di raggrupparsi formando come una sorta di gomitolo. Questo piccolo gomitolino sarà il nostro abbozzo di tartufo, il nostro tartufino piccolo. Ormai ci viene logico capire che quello che quindi noi cerchiamo e consumiamo altro non è che il frutto di una pianta che vive sottoterra, il cui suo nome è micelio. Quando i tartufi raggiungono la maturità, quindi sono maturi e hanno differenziato le spore al loro interno, emettono profumo ed è attraverso questo odore, questo profumo, che i nostri cani riusciranno a individuarli e a scavarli. Perché emettono profumo proprio in quel momento e non prima? La finalità del profumo è quello di attirare gli animali. Un animale che mi cerca, mi trova, mi consuma e mi mangia nel momento in cui io ho già realizzato e preparato i miei semi, cioè le mie spore, questo animale mi digerirà e poi disseminerà le spore a decine, centinaia di metri di distanza in altri luoghi. In questi luoghi le spore, se si verificheranno le condizioni adatte di temperatura, umidità e il terreno sarà idoneo, a loro volta germineranno, creeranno un nuovo micelio primario che andrà alla ricerca di nuovi apici radicali di una nuova pianta e formeranno una nuova tartufaia. E tutto si ripete. Noi siamo arrivati col nostro cagnolino, l'abbiamo trovato. Generalmente a che profondità si trovano i tartufi? Nascono a profondità variabile. Alcuni, come gli scorzoni, cioè i tartufi estivi, nascono molto superficiali, a livello del suolo se non pochi centimetri sotto. Altri tartufi preferiscono profondità maggiori, ad esempio il tartufo bianco, che è amante dei terreni umidi e freschi, lo troviamo a profondità maggiori, 10, 15, eccezionalmente anche a 50-60 cm di profondità. Per andare a tartufi si usano i cani, ma anche i maiali sono ottimi cercatori. In realtà bisogna dire che solo il maiale femmina, ovvero la scrofa, cerca i tartufi e lo fa perché l'odore del tartufo bianco maturo le ricorda l'odore del maschio, del verro, e quindi lo cerca. Oggigiorno il maiale è in disuso, non perché non sia un buon cercatore di tartufi, ma perché è un po' scomodo trasportare e muoversi con un maiale, è un po' difficoltoso. E quindi si usano i cani. Che tipo di cani si usano e di che addestramento hanno bisogno? Non esiste una razza vera e propria per i cani da tartufo. Solitamente sono stati utilizzati i cani di taglia medio, medio-piccola e soprattutto di razza meticcia, incerta. Vengono utilizzate anche cani di razza pura, però i cani cosiddetti da piuma, tipo i Breton, i Setter, i Cocker, i Pointer. Ma questi, soprattutto se sono veramente di sangue blu, veramente in purezza, hanno un istinto molto dominante sulla caccia e quindi talvolta questo li distrae dalla ricerca del tartufo. Per questo motivo è preferibile utilizzare degli incroci che sono meno attirati dalla selvaggina e si impegnano maggiormente sul tartufo. E come mai questi cani sono attirati dai tartufi? Perché li cercano? Il cane cerca tartufi se gli piace. Quindi se decideremo di andare a tartufi e vorremmo dotarci di un cane da tartufi, dovremo scegliere un cucciolo, ma questo cucciolo deve piacere il tartufo, lo deve mangiare. Se non gli piace, non lo mangia, difficilmente cercherà mai tartufi. Quindi quando il cane trova il tartufo e si mette a scavare, voi dovete fermarlo prima che se lo mangi. Beh, esattamente sì. Una volta che il cane ha individuato il tartufo e ha dato i primi colpi di zampa spostando il terreno superficiale, bisogna avvicinarsi con dolcezza, fermare il cane, verificare annusando il terreno che ci sia veramente il tartufo, dopodiché aiutandoci con un vanghello, un attrezzo apposta che serve per scavare, cominceremo a spostare sempre più terreno fin tanto che non spunterà il tartufo. Una volta che abbiamo acquistato il tartufo, come lo conserviamo? Una volta fatto l'acquisto e scelta la varietà, arriveremo a casa, conserveremo il nostro tartufo avvolto dentro della carta Scottex, della carta assorbente, all'interno di un contenitore ermetico, che sia di vetro o di plastica, va bene ugualmente, riposto dentro il frigorifero nei piani bassi dove solitamente teniamo la verdura. Questa carta Scottish che mettiamo assieme va sostituita ogni giorno. Poi è una buona pratica mettere assieme al tartufo nel contenitore dei prodotti come ad esempio le uova fresche col guscio o anche della pasta all'uovo, le tagliatelle. Vedrete che dormendo assieme, passando un po' di tempo assieme, si suol dire che si innamorano e quindi quando cucineremo il nostro uovo o faremo le nostre tagliatelle, queste avranno acquistato il sapore e il profumo del tartufo senza neanche usarlo. E invece mettere il tartufo nel riso è buona prassi? Diciamo che il tartufo nel riso ci deve stare poco, massimo una notte e mezza, non di più, perché il riso assorbe l'umidità, quindi magari abbiamo poi un buon riso aromatizzato al tartufo, ma il nostro tartufo sarà diventato un sughero. E qual è il modo migliore per cucinarlo? Prendo un tartufo nero, lo lavo, lo pulisco bene, lo grattugio con una lima, con un macinino in una ciotola, metto a cuocere la mia pasta, in un padellino metto un bel pezzo di burro o della panna, quando il burro e la panna saranno caldi, circa 20 secondi, aggiungo il tartufo che ho precedentemente macinato, mantengo a fuoco basso per 2-3 minuti, aggiungendo burro o panna se vedo che asciuga troppo. Lo mantengo così per 2-3 minuti, dopodiché colo la pasta che nel frattempo è cotta, unisco il tutto, due fettine sopra di coreografia e il nostro piatto è finito. Perché è importante non svelare la posizione di una tartufaia? I tartufai vanno in gran segretezza a cercare i tartufi, cercano di non farsi vedere, fanno lunghi giri a piedi, addirittura vanno di notte così nessuno li può osservare. Perché fanno così? Un motivo è quello della riservatezza, in maniera che nessun altro veda dove nascono i tartufi, perché nasceranno sempre lì e se un altro trova la mia tartufaia vorrà dire che il raccolto dobbiamo dividerlo in due o in tre o in quattro. E l'altro è perché i tartufi vanno raccolti con un certo criterio. Se li prendo troppo precocemente porto via i primi tartufi che si chiamano fioroni e non sono buoni, sono vermati, parassitati, non hanno ancora profumo e sapore. Però sono molto importanti perché sono un serbatoio di spore per la produzione dell'anno successivo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Credo che sia opinione diffusa che la psicanalisi sia o freudiana o junghiana. Ebbene, grande sorpresa in un vasto pubblico qui al Festival della Scienza di Genova quando Vittorio Lingiardi, psicanalista italiano di fama anche internazionale, ha aperto la sua conferenza sullo stato odierno delle ricerche in psicanalisi con un lungo elenco delle tante possibili teorie psicanalitiche e anche pratiche. L'ho intervistato e naturalmente gli ho chiesto di spiegare come mai è così diffusa la sensazione in tutti che la psicanalisi sia o Freud o Jung. Quando si ha un grande padre è difficile liberarsene, questo anche nella vita, nel bene e nel male. La psicoanalisi freudiana è stata una psicoanalisi che ha trasformato come poche cose nella storia del pensiero, nella storia delle discipline, proprio lo sguardo sull'umanità, e quindi capisco che abbia un radicamento profondo. È rimasta questa dimensione anche così del grande genitore psicoanalista con i suoi pregi e i suoi difetti. In realtà la psicoanalisi è una disciplina che sia attraverso i grandi conflitti tra le sue grandi personalità, prima raccontavo Bowlby e la Klein, André Green e Peter Fonagy, Kernberg e Coate, ma anche attraverso invece il lavoro molto più quotidiano nella stanza di analisi, della scrittura dei casi clinici o più recentemente della ricerca empirica, è un lavoro fatto di piccole modificazioni che diventano poi cambiamenti di paradigma e oggi la psicoanalisi ha pochissimo a che fare con quella di Freud. Ecco, arriviamo a questa perché appunto nella sua conferenza a un certo momento è apparsa una slide con 40 psicanalisi. Nella scienza ci sono, e come in altri campi, la presenza di diverse teorie sull'universo, adesso ce ne sono almeno tre. però anche in altre sono molto, ma molto meno. Come mai nella psicanalisi sono così tanti? Mi viene da dire che forse il problema è che se l'universo dovesse studiare se stesso probabilmente avrebbe molte più teorie di quante ne hanno i fisici. Credo che esattamente sia così. La psicoanalisi è per eccellenza la disciplina in cui tutte e due i protagonisti, l'oggetto osservato e l'oggetto osservante, sono soggetti che si osservano a vicenda. È una disciplina profondamente intrecciata con aspetti, come abbiamo visto, teoretici, modellistici, anche biologici, ma anche di personalità, di attitudine, di clima, di arredamento, e quindi tutte queste varianti e anche un po' l'umanità di questa disciplina e quindi la sua inevitabile litigiosità ha prodotto percorsi di pensiero. Poi, volendo essere un pochino più puntuali, questi linguaggi possono essere ricondotti a filoni principali: una psicoanalisi più legata a un modello intrapsichico classico, freudiana e post-freudiana, una psicoanalisi più legata alla dimensione relazionale, bipersonale, che dalle relazioni oggettuali va alla psicoanalisi nordamericana contemporanea, e a una psicoanalisi più di scienza che di stanza dell'analisi, che sta iniziando a dialogare con le neuroscienze. Ecco, parlavamo prima proprio all'inizio di conoscenza diffusa che si ha della psicanalisi, un paradigma, un mattone di fondo di questa base della storia della psicanalisi è il sogno. Rimane ancora oggi un paradigma di fondo oppure anche questo sta diventando meno importante, diciamo, nell'analisi e nella terapia? Io credo che sia ancora importante, ma non assolutamente importante per tutte le analisi e per tutti i percorsi terapeutici. Io credo che ci sono pazienti che comunicano, che loro lo sappiano o no, più facilmente il loro mondo interno attraverso narrazioni oniriche, e analisti più attrezzati, più disposti, più capaci di lavorare con questo livello di comunicazione, con questo linguaggio. Ci sono, io stesso nella mia esperienza, ho pazienti con i quali il lavoro sul sogno è pane quotidiano e pazienti, parleremo di un sogno all'anno, ma sono anche qui, diciamo, pur dentro lo stesso analista ci sono già due analisi diverse, una molto centrata sui sogni e una per niente. Ecco, ultima domanda: noi nella nostra trasmissione parliamo spesso delle neuroscienze, ovvero queste strumentazioni che oggi, attraverso strumenti molto sofisticati, riescono a leggere il comportamento della nostra mente, della nostra testa, del nostro cervello mentre si svolgono delle azioni. È del tutto evidente che non è che le neuroscienze ci stanno spiegando come e perché ci comportiamo. Se qualcuno sostiene questo è una coperta troppo tirata. Però è altrettanto evidente che sono uno strumento potente. Riuscite a mettervi insieme? Ha senso che vi mettiate insieme? È meglio stare separati ed avere dei momenti comuni di grande efficacia? Ma insomma, dalle due competenze può effettivamente venire fuori nel prossimo futuro qualcosa di grosso, di importante, un grande salto per esempio conoscitivo? Ma credo che difficilmente potrà venire fuori una unica disciplina che somma la storia, le competenze, gli interessi e le metodologie di queste due discipline. Credo che si sia stato avviato un dialogo, credo che gli psicoanalisti per certi aspetti si siano sentiti molto confortati, alcuni, dall'esistenza di questo dialogo, perché li fa sentire, come dire, più tutelati dal punto di vista epistemologico. Esattamente per questa ragione molti altri psicoanalisti hanno tardato a capire il senso di questo dialogo. Io credo che ciascuno andrà avanti a fare il proprio lavoro, che peraltro si svolge poi anche con oggetti e in ambienti diversi, che i momenti di dialogo aumenteranno, che grandissima parte del gioco è affidata agli studi sull'infanzia, sull'infant research, sulle modalità di relazione, di attaccamento e di regolazione reciproca tra il bambino e il caregiver, che moltissimi modelli diagnostici verranno interpretati alla luce di elementi biologici e genetici e non psicodinamici. Pensi a cosa è stato dell'autismo, alla lettura dell'autismo, considerata fino agli anni 50-60 un terreno di lezione dell'intervento psicoanalitico, oggi affatto. Io credo che un grande mediatore linguistico tra psicoanalisti e neuroscienziati sono i cognitivisti, sono gli psicologi cognitivisti, soprattutto quelli, come in Italia molti ce ne sono, che hanno incluso lo studio delle emozioni dentro la loro disciplina, e ci si avvierà, come è giusto, a essere ciascuno studioso, ricercatore e professionista nel proprio campo disciplinare, ma non più, come dice Fonaghi, assorbiti nel proprio splendido isolamento. Odissea è la storia di un lungo viaggio di Ulisse con i suoi uomini nel Mediterraneo. C'è un altro viaggio molto lungo che ha fatto la matematica, sempre nel Mediterraneo. Chiara Albicocco vi racconta questa storia. Siamo qui ad Odissea, una mostra organizzata a Palazzo Ducale. Davide, tu sei la nostra guida personale. Intanto, questa mostra da chi è organizzata? Questa mostra è organizzata dal CNR, da Mate Fitness e dal Dipartimento di Matematica di Genova. Ecco, adesso ci troviamo davanti a una mappa del Mediterraneo, perché questa mostra si compone di diverse sezioni e faremo una sorta di viaggio nella matematica dell'antichità. Passeremo dalla Magna Grecia, poi in Grecia, e successivamente in Turchia, nei paesi arabi, e torneremo con Fibonacci in Italia. Andiamo. Allora Davide, ora siamo in Magna Grecia, se non sbaglio. Okay. Che cosa abbiamo davanti a noi? Abbiamo davanti uno strumento musicale che si dice fosse stato inventato da Pitagora. Pitagora, passeggiando per le strade della città, sentì un fabbro picchiare con dei martelli di diverso peso su delle incudini, e scoprì praticamente una relazione che c'era tra le frazioni e i suoni. E allora provò a misurare, insomma, a costruire uno strumento e a dividere questo uno strumento a corda. A dividere la corda in più parti. A dividere, sì, la corda in più parti. Praticamente funziona come un violino, dove si sanno le posizioni a memoria e a seconda della posizione le note sono più o meno gravi o più o meno acute. Ok, proviamolo. Ok, questo strumento ha due corde, una serve di confronto e una serve per sentire la nota che andiamo a cambiare. Allora, principalmente dovrebbe essere accordato in Do, e quindi la nota fondamentale è Do e la facciamo sentire. Poi, spostando un apposito legnetto sulla seconda corda, fondamentalmente a metà della corda, abbiamo uno stacco di un'ottava, cioè andiamo a fare la stessa nota, Do, soltanto un ottavo più alta, quindi più acuto. E poi possiamo ridividere ancora lo strumento in più parti, ad esempio posizioniamo questo legnetto a un quarto e possiamo sentire uno stacco di quinta, cioè da Do passiamo a Sol. Ok, e questo era un esperimento fatto da Pitagora. Questo cosa ci spiega? Suddividendo uno strumento a corda in più parti, quindi in frazioni, riusciamo a individuare diverse note, come ad esempio una chitarra, un violoncello, un violino. Davide, proseguiamo il nostro viaggio, dove siamo adesso? Adesso siamo in Grecia e abbiamo due exhibit che mostrano come Aristotele aveva posto le basi del corretto ragionamento tramite i sillogismi, e da una parte invece due esperimenti di Archimede che riguardano quanto il volume di una sfera occupa all'interno di un cilindro di altezza pari due volte il raggio della sfera, e si va a verificare che il volume della sfera occupa due terzi del volume del cilindro. Invece di lato abbiamo una ricostruzione di come Archimede aveva studiato le figure e la geometria sulla sabbia, e tramite un motorino possiamo disegnare sulla sabbia tipo la spirale archimedea oppure fare altri disegni per poter far divertire i bambini, insomma. Archimede faceva tutto manualmente, non aveva il motorino. Esatto, faceva tutto manualmente, in particolare non c'erano i fogli e se chi ce l'aveva erano gli egiziani con i papiri. Davide, ora abbiamo davanti a noi una clessidra praticamente trasparente di plexiglass sulla quale proiettiamo un laser. Che cosa vuol dire questo exhibit? Sì, qua facciamo vedere come si possono ottenere le cosiddette coniche facendo proiettare un laser su questa clessidra. E a seconda dell'inclinazione in cui... Cioè praticamente c'è un volante che permette di variare l'inclinazione di questo fascio, e variando questa inclinazione otteniamo delle coniche differenti. Ad esempio, se proiettiamo questo fascio in modo parallelo alla base del cono, otteniamo una circonferenza. Lo incliniamo leggermente, otteniamo un'ellisse, e ancora di più una parabola, fino a metterlo quasi verticalmente, ottenere dei fasci di iperbole. E giunti nella sezione araba, che cosa troviamo? Troviamo un exhibit che mostra praticamente l'importazione del sistema decimale da parte di Fibonacci in Italia, e quindi ritroviamo le cifre con cui contiamo oggi, compreso lo zero. Lo zero infatti in Italia non esisteva, per i matematici era impensabile che ci fosse un numero rappresentante il vuoto. Importando lo zero e non esistendo in Italia, gli si è dato anche una connotazione simbolica. Sì, si è deciso di prendere il simbolo zero dal pugno chiuso e rappresentare quindi il nulla. Siamo in chiusura, Chiara, da Genova, salutiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici, però non abbiamo finito, abbiamo parecchie altre cose. Sì, sono un po' dispiaciuta perché tra poco, insomma, il festival finisce, torniamo a casa, si torna alla normalità, però ci portiamo a casa un po' di contributi, un po' di lavori che mano a mano faremo sentire agli ascoltatori. Buona serata a tutti e a tutte. Ciao da Genova.